Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio a maggio del 1860. Garibaldi parte con 1000 volontari alla conquista della Sicilia, presa Palermo. Stati Uniti, tragedia sul lavoro, crolla una fabbrica, 145 morti. La strana invenzione di un francese consente di catturare i suoni. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento, che apriamo con la nuova iniziativa militare di Giuseppe Garibaldi, il generale salpato con un migliaio di volontari verso il Regno delle Due Sicilie e ha già conquistato Palermo. È una strana pazza avventura quella di Garibaldi. Una strana pazza avventura che potrebbe ancora, lo pensano in molti, finire in un bagno di sangue, ma anche incredibilmente avere successo. Il generale è partito con i suoi volontari da Quarto lo scorso 5 maggio ed è arrivato in Sicilia a Marsala l'11. È lì incredibilmente riuscito non solo a sbarcare con le sue 1000 camicie rosse, ma anche a vincere 4000 borbonici a Calatafimi e a proclamare la propria dittatura rivoluzionaria nel nome dell'Italia e di un re, Vittorio Emanuele. Ormai ha in pugno Palermo, che si è rivoltata, come sperato. A Genova, in Piemonte, in Europa, lo sapevano tutti. Altro che spedizione segreta. Fauché, il procuratore della compagnia Rubattino, ha accondisceso al furto, ufficialmente questo doveva sembrare, di due navi, il Lombardo e il Piemonte. Ma la cosa si è svolta di fronte ai genovesi affacciati alle finestre, tutti a guardare Bixio che con 40 compagni spostava i due vapori a Quarto per accogliere i garibaldini. Intanto Cavour a Torino si preoccupava. E sì, perché Cavour, che dal 21 gennaio è tornato a guidare il governo sardo, da un lato teme la vittoria di Garibaldi, dall'altro ne teme la sconfitta. In fondo, per una volta, ha avuto ragione Mazzini. Era convinto che nessuno in Europa si sarebbe mosso. E infatti tutti hanno protestato vigorosamente con Torino, ma nessuno è intervenuto. Anzi, gli inglesi hanno fatto capire che in caso di conquista del Regno delle Due Sicilie, Londra non si opporrebbe, purché la cosa non rafforzi la Francia. Anche Parigi pare disposta a traccheggiare, purché non ci sia l'invasione dello Stato della Chiesa. Per portare a casa Savoia e Nizza, facendo arrabbiare Garibaldi che ha tentato in ogni modo di bloccare la cessione, Napoleone III ha già accettato i plebisciti e le annessioni di tutta l'Emilia, la Toscana e di una fetta delle Marche da parte del Regno di Sardegna a marzo. E dire che Garibaldi era pronto a mollare tutto alla notizia che un secondo moto siciliano dopo il fallimento della rivolta di Francesco Riso era finito male. Dicono che il suo amico Crispi gli abbia presentato un secondo telegramma, un po' edulcorato, e lui si sia convinto. E così l'avventura è partita. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. È una delle maggiori tragedie sul lavoro che si ricordino. In Massachusetts, negli Stati Uniti, la sede di un'azienda tessile, la Pemberton, è collassata. 145 operai sono morti, altri 166 sono rimasti feriti. Sotto accusa le condizioni dello stabilimento, ma anche un evento che ha aggravato la situazione. Con molte persone ancora intrappolate sotto le macerie, qualcuno ha urtato una lampada ad olio e le fiamme hanno fatto il resto. Nelle intenzioni dell'autore, anche se non lo sembra, questa è musica e per essere precisi una canzone che si intitola Au clair de lune. È più che altro un esperimento del francese Édouard Léon Scott de Martinville, che è riuscito a catturare in questo modo la sua voce e poi a riprodurla tramite un attrezzo che ha chiamato fono autografo. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Scriveteci a gazzettinoetradio24.it oppure sulla nostra pagina Facebook. Visitate il sito www.radio24.it e scaricate il nostro foglio quotidiano. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.